Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mi piaci, mi piaci. Mi piace molto il pollice in su, quello che vedo ogni giorno sulla pagina Facebook. Per me è un integratore straordinario. Se volete cliccate su mi piace e mi fate felice. Ma se i mi piaci mi tirano su, ci sono anche dei gesti che fanno bene. Si fanno sempre con le dita delle mani, si chiamano mudra. Ne parliamo con Daniele Belloni di Yoga and Meditation Training. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti. Fronte? Rilassata. Ombelico? Mobile, in movimento, fluido e continuo. E allora noi siamo pronti. Andiamo alle mani, ai mudra. Esatto. Allora, questi gesti simbolici che nella tradizione dello yoga chiamiamo proprio mudra, sono gesti che vengono utilizzati e si eseguono con le mani proprio per potenziare una determinata fase della nostra pratica. Vi sono mudra che influiscono e potenziano una posizione che nello yoga possiamo eseguire, ma anche una concentrazione, una visualizzazione, una meditazione e, perché no, anche un tipo di respirazione può essere potenziata. Ad esempio l'espirazione o l'inspirazione, una delle fasi della respirazione può essere potenziata dall'esecuzione di un determinato gesto delle mani. Ricordiamo anche che la tradizione indiana, non solo per quanto riguarda lo yoga, è ricca di questa raffigurazione di mani in gesti particolari, simbolici e significativi. La pittura, la danza, ogni espressione artistica in India è attraversata da questa gestualità bella e simbolica. Pensiamo a, non lo so, alla capacità che ha il danzatore o la danzatrice di eseguire una mudra, e con questa mudra riesce il danzatore o la danzatrice a rendere più potente, più significativa, più comunicativa l'espressione corporea che attraverso la danza si realizza. Quindi diciamo che con la mudra possiamo potenziare qualunque aspetto della nostra espressione, e nello yoga è particolarmente interessante appunto perché possiamo rendere più efficaci e potenti dei gesti che hanno a che vedere con il benessere, la salute e il nostro vivere bene. Daniele, le ricerche confermano che i gesti aiutano a spiegarsi meglio, ma a pensare anche meglio, ma da quanto ci dici tu, i gesti aiutano anche a meditare e a respirare. Assolutamente, aiutano a meditare, a respirare, a guarire. Ci sono mudra di guarigione, mudra per la comprensione, mudra per sviluppare la conoscenza e la saggezza. Ad esempio, se siamo in un esercizio di meditazione, di quelli che abbiamo fatto spesso assieme, Nicoletta, certo, potete scaricarli sul sito, mi raccomando. E io esatto, è qua che ti volevo. Ad esempio, una semplice respirazione diaframmatica come quella che conosciamo ormai bene, dove si muove bene l'area dell'ombelico e dello stomaco, come dicevamo all'inizio, sempre fluida, con l'espirazione rientra, inspirando si espande delicatamente la fronte distesa. Se noi eseguissimo con questa tecnica di respirazione una mudra particolare che si chiama mudra della conoscenza, cioè unendo indice e pollice e lasciando le altre tre dita distese rilassate, con il dorso delle mani in appoggio alle ginocchia o anche col palmo delle mani in appoggio, come preferiamo, rivolgere la mudra verso il cielo o verso terra, e pensassimo al nostro respiro come una struttura circolare che inspirazione e espirazione descrivono, senza soluzione di continuità. Nella nostra mente questa idea di respiro fluido e continuo, circolare, senza interruzione, armonioso, profondo. La stessa idea nelle nostre mani, perché indice e pollice disegnano un cerchio perfetto, rilassato, senza interruzioni, immagine stessa dell'armonia. Ecco che la nostra respirazione, la nostra tecnica di respirazione a livello mentale verrebbe potenziata in modo simbolico straordinariamente. Quindi la nostra tecnica respiratoria, la nostra meditazione sul respiro, la nostra contemplazione del respiro sarebbe straordinariamente più efficace, proprio perché sostenuta da un gesto simbolico, significativo. E gli ascoltatori di Essere Benessere hanno tutto l'occorrente per farlo, perché abbiamo la fronte e sappiamo che dobbiamo rilassarla, tutti abbiamo un ombelico, abbiamo sul sito la possibilità di scaricare la meditazione suggerita da Daniele Belloni e adesso Daniele ci ha spiegato di aggiungere un gesto, un mudra, una mudra si dice, Daniele? Sì, certo, femminile. Nicoletta. Vedi? Grazie a Daniele Belloni per essere stato con noi. Grazie Nicoletta e buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Se sei un amico ti stringo la mano, se chiedi un aiuto ti tendo la mano e prendi la mano e dammi. E alla mudra, ai gesti di benessere aggiungiamo i gesti che facciamo nel quotidiano. Pensiamo a quando afferriamo, accarezziamo, stringiamo, insomma quante cose facciamo con le nostre mani. Non a caso abbiamo 10 dita che si muovono. Voi usatene uno, 800 24 00 24 per comporre il nostro numero verde. Delle altre si occupa oggi la dottoressa Simonetta Odella, che è tornata a trovarci, specialista della chirurgia della mano e del polso all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per l'invito. Ho visto che si esercitava anche lei, E certo, la meditazione è importante, soprattutto per dei lavori stressanti in cui è richiesta una bella concentrazione, quindi anch'io potrei adottare queste tecniche, anzi grazie. Bene, siamo contenti. Allora, guardiamo le nostre dita, ogni dito ha una sua funzione, dottoressa Odella. È vero, ogni dito ha una sua funzione e le dita che sicuramente usiamo di più sono proprio quelle per i mudra, l'indice e il pollice, perché la presa della pinza dell'indice e del pollice è sicuramente il gesto che facciamo più frequentemente durante l'arco della nostra giornata, e la possibilità di usare il pollice come opponente per le altre dita è la possibilità che ci fa differenziare dal regno animale. Se ci pensiamo, siamo solo noi che possiamo fare questo tipo di gesto. Ma ogni dito ha anche il suo punto debole, ad esempio il pollice è quello che sembra invecchiare prima. È vero, il pollice è quello che invecchia prima ed invecchia più precocemente purtroppo nelle donne. Ancora una volta le donne sono più colpite dalle patologie a carico della mano. La rizoartrosi, che è l'artrosi della radice del pollice, è proprio tipicamente femminile e c'è una predisposizione che non è genetica ma è familiare, quindi guardiamo alle nostre mamme. Se le nostre mamme hanno l'artrosi, l'avremo anche noi. La rizoartrosi sta un po' alla mano come la lucevalgo sta al piede? Sì, possiamo dire di sì. Sì, in un certo senso è una patologia abbastanza frequente nella mano, anche perché il pollice è il dito che usiamo più frequentemente nei nostri gesti quotidiani, come per aprire una bottiglietta d'acqua, per girare le chiavi nella toppa di casa, e quando iniziamo a sentire qualche doloretto dobbiamo metterci un po' in allarme e fare un'indagine radiografica. Mentre le altre dita grosso modo si salvano o anche loro hanno dei punti deboli, si deformano, si piegano un po', si diventano più sensibili o leggermente insensibili? Ma dunque no, anche le altre dita hanno i loro punti deboli, anche le interfalangee delle dita lunghe possono andare incontro ad un invecchiamento, ad un'artrosi, perché l'artrosi non è altro che un invecchiamento fisiologico delle articolazioni, che diventa patologia quando diventa doloroso. Quando abbiamo cioè le nocche delle mani, quando abbiamo le nostre dita gonfie e arrossate, dobbiamo metterci in allarme perché potremmo avere o una fase acuta di un invecchiamento oppure altre patologie infiammatorie che poi vanno a localizzarsi alle mani. 800 24 00 24, mano e dintorni. Morticia, sta cercando di dirci qualcosa. Parla, mano. Smetti di balbettare, che cosa... Caro, ci sta dicendo che c'è qualcuno alla porta. Oh, tu e mano, che intesa perfetta. Saluto il professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago di Milano. Buongiorno professor Di Pietro. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, a voi dermatologi l'occhio cade anche sulle mani, dopo il volto è subito il dettaglio che andate a cercare, perché la pelle, l'aspetto delle mani racconta molte cose, racconta il nostro stile di vita, come il tipo anche della nostra pelle, quanta cura dedichiamo a noi stessi. Certo, certo, sicuramente, ma è anche una fonte di richieste molto importante per noi dermatologi da parte dei pazienti, che si allarmano molto se cominciano a vedere delle macchioline, perché vogliono sapere se dipendono solamente dall'invecchiamento o se invece possono essere delle patologie. Le verruche sulle mani sono infatti molto frequenti, così come anche la pelle che comincia a perdere elasticità, tono, turgore, come in altre parti del corpo, sulle mani ancora di più, perché la pelle in quella zona è particolarmente esposta non solo alla luce ma anche all'acqua. Ecco, chi si lava frequentemente le mani ha le mani più rovinate, soprattutto se non le asciuga molto bene, cosa che è molto frequente. Professore, lei ha parlato di macchie e quelle che preoccupano sempre molte persone perché danno quell'aspetto alla mano vecchieggiante. Si possono prevenire o attenuare, cancellare, smorzare, un po' attenuare sul nascere? Beh, per prevenirle bisognerebbe prendere poco sole, sì, cioè diciamo quel che basta. Le mani sono esposte molto più del viso e quindi tendono a macchiarsi con molta facilità, soprattutto in chi è predisposto. Ma attualmente con i laser che abbiamo a disposizione si riesce veramente con ottimo successo ad eliminarle in pochissimi secondi. Viene vaporizzato lo strato superficiale di cellule cutanee che trattengono la melanina e quindi il colore e quindi la macchia, e le macchie spariscono nel giro e di la macchia non c'è più, si vaporizza, professore, e naturalmente non lascia segno. No, direi assolutamente di no, con le nuove strumentazioni che abbiamo per fortuna questi problemi sono superati. Professore, invece creme che schiariscono? Le creme che schiariscono non sempre riescono ad avere degli ottimi successi, soprattutto sulle mani, dove la pelle è un po' più coriacea, un po' più spessa, e quindi fanno fatica a penetrare e ad agire. Ma parlando di mani, non dobbiamo dimenticare le unghie, dove molti si accaniscono su queste povere unghie con dei manicure estremamente aggressivi, cercano di togliere una parte importante che è quella pellicina che c'è alla base dell'unghia, tra l'unghia e la pelle, che è un vero e proprio stucco che mantiene ferma l'unghia e impedisce ai germi di penetrare all'interno della pelle. Quindi, ecco, professore, vuol dire che non va tagliata ma va spinta indietro? Beh, andrebbe accarezzata, non andrebbe accarezzata, perché però se viene però all'unghia poi viene brutta, professore. Ma qual è il problema? Il problema è che adesso non è basta che vada tutto bene, poi anche un po', no? Buttiamo anche l'occhio. Bisogna farlo con molta delicatezza, perché la pelle reagisce sempre ai nostri insulti. Quindi se si cerca di spingerla a tutti i costi in profondità indietro, dopo pochi giorni la pelle reagisce e ne produce ancora di più. Quindi si crea un circolo vizioso dove il rischio di eliminarla in maniera aggressiva è altissimo, e a questo punto penetrano con facilità dei germi e vengono delle infezioni. Classico giradito, esatto, che viene definito, in termini tecnici si definisce perionissi, però insomma normalmente si chiama giradito. Fastidiosissimo, perché l'unghia si arrossa, la pelle si gonfia. Mi dia una ricetta per farlo sparire velocemente. Diceva mettere il dito, adesso la professoressa, la dottoressa Odella stupirà, nell'acqua e sale bella calda, e c'erano praticamente dita bollite quasi, perché si pensava che il calore fosse proprio quello capace di togliere l'infiammazione. Mi ricordo che mia nonna me lo faceva fare ogni tanto quando mi è capitato un paio di volte, un dolore terribile. Adesso per fortuna questo rimedio della nonna è stato accantonato. E in alternativa che cosa possiamo utilizzare? Beh, sì, basta utilizzare delle creme antibiotiche o antimicotiche. Lì è importante riuscire a capire se l'infezione è causata da dei batteri o da dei funghi che sono penetrati all'interno dell'unghia. Basta applicare queste creme e in pochi giorni il giradito tende senza bollire le dita in acqua e sale. Lì con la pasta va bene, insomma, ma con le dita evitiamolo. Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Anche a voi, a presto, buona giornata. Abbiamo in linea con noi Pasquale, che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua. Lei ormai è indispensabile, ogni giorno si deve prendere qualcosa. Io ho un problema all'anulare sinistro della mano. Sì. Sì, ho alzato un peso e a un certo punto l'anulare non mi funziona scatto. Non va più. Il dito, l'anulare è svenuto dal peso, non si è più ripigliato. Troppa fatica, insomma. Sì, ha detto non ne posso più. Che cos'è, dottoressa? Probabilmente aveva già una tendinite, quindi magari è un signore che usa parecchio le mani, che solleva parecchio dei pesi, e questo sforzo gli è stato fatale, e bisogna capire se il dito va a scatto ma riesce a estendersi e a piegarsi, o se è rimasto o solo esteso o solo piegato. Bisognerebbe fare qualche domanda in più al nostro ascoltatore. Pasquale, forse... Sì. Eccolo, lei usa molto le mani? Sì, molto le mani, però oddio, il dito si muove, non è che non si muove. Ah, perfetto. Allora non è niente di grave, è una banale infiammazione che può indagare con un'ecografia, in modo tale da vedere se c'è un ispessimento della guaina che lo riveste e se rimane strozzato in questo ponte di fibre che si chiama troclea, che è alla base del dito nel palmo della mano. È una patologia dolorosissima, ma è il banale dito a scatto da quello che mi descrive. Quindi riposo? Riposo, ghiaccio e un'ecografia ed eventualmente un'infiltrazione con un po' di cortisone, ma non dobbiamo eccedere perché sennò il tendine rischia di rovinarsi e rompersi. Il tendine dell'anulare è un tendine delicato, quali altri tendini delle mano possono... Ma i tendini flessori sono tutti dei tendini delicati, soprattutto perché se si rompono sono poi molto difficili da riparare e da recuperare da un punto di vista funzionale. Si rompono per usura o si rompono per sovraffaticamento, per uno strappo? Come... Dipende, possono rompersi o perché c'è un sovraccarico funzionale, quindi un'usura, o perché ci sono delle malattie infiammatorie, magari reumatiche associate, che possono portare alla rottura di questi tendini anche spontanea, o possono rompersi per degli strappamenti, ma il modo più frequente per i flessori sono le lesioni da taglio. Le lesioni da taglio. Sergio da Fermo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, sta bene? Sì. Oh, questa è una buona notizia. Se non fosse questo problema che ho alle mani il mattino presto. Solo al mattino presto, si svegliano? Sì, mi si addormentano mentre dormo, mi si addormentano con formicoli dolorosi e mi svegliano verso le 5. E mi devo alzare perché è doloroso questo formicolio delle mani, proprio non le sento più. Alzandomi, stando in piedi, piano piano riprendono un po'. Sergio, posso farle una domanda? Sì. Si addormentano tutte le dita o solo alcune dita della mano? Questo è vero, non tutte, alcune sono... Vede, l'ha beccata la dottoressa Della, è astuta, la sa la cosa, perché ha detto tutte, no, solo alcune, quali? Il mignolo quasi mai. Quindi le prime tre dita, sostanzialmente metà del quarto. Sì, e poi sai come ho rimediato? Come? Mettendomi i guanti. Ecco, al posto dei guanti, dunque, questo formicolio... Allora, perché abbiamo chiesto quali mani? Perché questo dà delle indicazioni anche naturalmente agli ascoltatori, anzi ringraziamo Sergio da cui prendiamo spunto. Abbiamo detto 10 dita, il formicolio, noi tendiamo a dire le dita, la mano mi formicola, ma fate attenzione alle dita interessate. Perché, dottoressa Della? Perché a seconda del nervo che viene compresso abbiamo un interessamento di diverse dita della mano. Le prime tre dita della mano sono quelle che afferiscono al nervo mediano, è la classica sindrome del tunnel carpale che di notte più frequentemente esordisce, quindi all'inizio abbiamo un formicolio solo notturno. Quando poi il formicolio è fisso anche durante il giorno, vuol dire che il danno al nervo è abbastanza progredito e quindi insomma sarebbe meglio intervenire prima di avere il formicolio anche di giorno. Quindi dimmi quando ti formicola il dito ti dico a che stadio di patologia sei. Essere e benessere. Siamo tornati, parliamo delle nostre mani, le mani d'altronde parlano di noi, a volte dicono più delle parole. Oggi ribaltiamo la situazione, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 e diteci tutto di loro, se qualcosa è cambiato nella loro forma, se non rispondono più come una volta, se si addormentano, formicolano, se sono particolarmente sensibili, avvertono di più la fatica, sono meno forti, non afferrano più, insomma chiamateci anche per dirci che tutto va bene. Succede alla maggior parte delle mani, dottoressa Della, e quindi continuiamo a parlare di loro anche per continuare a mantenerle Bene, in buona salute, perché ci servono. Tra l'altro, lei che si occupa di mani, si occupa anche di, cioè, si è presa un po', no? Basta un dito, si dice, no? Ti lasci un dito, ti prendono il braccio, è il caso del chirurgo della mano. Ma i chirurghi sono sempre così, si risale sempre. Perché voi vi occupate della mano e poi vi siete allargati polso e gomito, e vorrei andare lì, perché di solito una parte che, di cui non ci occupiamo tanto è essere benessere, invece può dare, perché... Il gomito può dare una serie di problemi, soprattutto agli sportivi. È vero. E quindi guardatevi il polso, a seconda di dove fa male il polso, la dottoressa, il gomito, scusate, la dottoressa Odella potrebbe dirvi se giocate a tennis o se giocate a golf. È vero, anche e non questo. È una chiromante. No, no, assolutamente. È solo una chirurga della mano. Perché, dottoressa Odella, il gomito si divide in così? Beh, perché abbiamo il famoso gomito del tennista, sono i dolori, sono le epitrocleiti, cioè l'infiammazione dell'inserzione di quel gruppo di tendini e di muscoli che ci fanno estendere il polso e le dita della mano. Sono dolorosissime, sono delle malattie che durano 18 mesi, sono delle tendiniti croniche. 18 mesi? Sì, hanno un arco di tempo in cui si sviluppano e fortunatamente regrediscono spontaneamente di 18 mesi, ma sono dolorosissime ed invalidanti, perché il dolore è talmente forte in alcuni movimenti che si lasciano anche gli oggetti presi in mano. Dottoressa, dicevamo il gomito, a seconda della parte del gomito in cui avvertiamo dolore, possiamo dire se giochiamo a tennis o giochiamo a golf. Allora, che non vuol dire però che il dolore l'avvertono solo gli sportivi. No, è un modo di dire, abbiamo sentito tutti il gomito del tennista, ma adesso c'è anche il gomito del golfista. Quando invece di far male la parte più esterna del gomito, fa male la parte più interna, ed è l'inserzione dei flessori, probabilmente proprio per la presa della mazza da golf. Ma sono stati fatti degli interessanti studi e abbiamo visto che i golfisti e i tennisti professionisti questi dolori raramente li hanno. Sono i golfisti della domenica, i tennisti della domenica, gli amatoriali che sviluppano questi problemi, probabilmente per un gesto atletico che non è adeguato, che non è ben compiuto. Ci sono delle novità nel trattamento? Delle sì, buone notizie? Abbiamo delle buone notizie, perché il trattamento chirurgico purtroppo per le epicondiliti dà dei risultati che per un chirurgo sono scadenti, 7 volte su 10 sono buoni, quindi un 30% di risultati non soddisfacenti. Abbiamo visto che adesso le possiamo trattare con delle infiltrazioni di fattori di crescita. I fattori di crescita non sono altro che delle sostanze contenute nel nostro sangue adeguatamente centrifugato, quindi sì, si fa un banale prelievo del sangue, si centrifuga e la parte gialla, che è il plasma ricco di piastrine, che sono delle cellule normalmente presenti nel sangue, contengono questi fattori di crescita che sono come delle specie di SOS, corrono in aiuto delle celluline danneggiate e le rigenerano. Mi piace, le possiamo anche visualizzare, come le vestiamo queste celluline? Ma io direi bianche con la croce rossa. Croce rossa e arrivano Franco da Milano, Sebastiano da Milano e Roberto da Crema. Aspetto naturalmente anche le mie ascoltatrici. Franco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, dottoressa. Io lo ascolto sempre, da quando è nata Radio 24. Grazie. Mia moglie ha la rigioartrosi. Sì, infatti la dottoressa Odella diceva è un problema più femminile. Esatto, e avremmo bisogno di qualche informazione, se fosse possibile, per uno specialista, perché lì anche lei gli cadono gli oggetti e... È normale. È molto dolorosa la cosa, insomma. E soprattutto fare una diagnosi adeguata. Esatto. È la cosa più importante. Qual è il percorso, l'iter diagnostico, dottoressa? Beh, innanzitutto dobbiamo sapere quanti anni ha la signora. La signora ha 62. 62 anni. Gioca a tennis. Ecco. È anche molto brava. Bene, la rimetteremo in condizioni di giocare a tennis, bene, allora. Beh, insomma, innanzitutto dobbiamo sapere se è in una... La rizoartrosi ha un andamento abbastanza capriccioso. Bisognerebbe fare una radiografia per capire quale stadio di patologia abbiamo di fronte. Ma, paradossalmente, gli stadi iniziali sono quelli più dolorosi, perché l'articolazione è ancora mobile, sono possibili quindi delle buone escursioni di movimento che creano dolore per lo sfregamento tra le superfici articolari danneggiate. Le forme più evolute vanno incontro ad una sorta di anchilosi spontanea, sì, è come se andassero in un'artrodesi, si fondessero le ossa spontaneamente. Non essendoci più molto movimento, chiaramente l'artrosi diventa meno dolorosa. Quindi forse la signora è in fase iniziale. Ecco, col tempo migliora. Paradossalmente migliora. Però è nella fase iniziale che si può appunto diagnosticare rapidamente con questo esame, con una banale radiografia, che si può intervenire se ottengono i migliori risultati. Questo... Ci sono tra l'altro tantissimi tipi di trattamento, da conservativo a chirurgico, a seconda delle esigenze dello stadio patologico. Che può essere quindi anche il tutorino? Il tutorino di notte sicuramente aiuta, ma non di giorno, perché altera poi il normale movimento della mano, del polso, quindi per assurdo di giorno durante le attività quotidiane va tolto, sì. Quindi va tenuto di notte. Lo mettiamo un po' come un pigiama. Un po' come un pigiama, un pigiama. Sì. Sebastiano da Milano, Roberto da Crema. Sebastiano, buongiorno. Buondì dottoressa, salve, complimenti per la trasmissione. Quando posso vi ascolto per radio. Grazie. Ascolti, io ho 50 anni, faccio l'agente di commercio e da qualche mese accuso dei forti dolori all'altezza del gomito destro e del gomito sinistro, soprattutto di notte. E ho provato a chiedere al mio medico di base e mi ha consigliato di utilizzare dei cerotti che ho messo su per all'incirca 10 giorni. Il dolore un attimino si è calmato, però poi ha ripreso di nuovo a farmi male sia di notte che di giorno, ma soprattutto di notte. E lei non gioca gioca a tennis, gioca a golf? No, ne parlavamo proprio prima. Ma dottoressa Odella, sì, ma dunque è sempre la notte il momento difficile per le mani, perché polsi, di notte dormiamo in orizzontale, le pressioni del sangue si riequilibrano, i tessuti molli si gonfiano e quindi banalmente è proprio un fatto di pressione del sangue, sì. Bisognerebbe fare anche qui una banale radiografia per capire se è un problema osseo, potrebbe essere, ma più probabilmente ancora una volta un problema tendineo, e quindi l'esame andrebbe completato con una ecografia. Sono tutti esami a bassissimo costo, la radiografia da poche radiazioni, per cui non è particolarmente impegnativo, e l'ecografia neanche, per cui basso costo e non invasivo, è un esame ottimo. Sebastiano ci diceva che aveva messo dei cerotti. Cerotti antinfiammatori durante la notte sicuramente possono dare beneficio, magari associati anche al ghiaccio, mettere un ghiaccio con un panno di lana tra la cute e il ghiaccio, in modo tale da evitare le ustioni, sì, perché che possono anche verificarsi. Il ghiaccio cuoce. Sì, il ghiaccio ustiona purtroppo. E potrebbe aiutare, quindi un 20 minuti di ghiaccio a cicli per un'oretta prima di coricarsi, e poi il cerotto antinfiammatorio potrebbe avere già dei benefici. Quindi potenzia l'effetto del cerotto. Sì, il perché ghiaccio... la crioterapia è antinfiammatoria, è un quindi rimedio banale ma funziona. Questo è un consiglio che possiamo utilizzare non solamente per il gomito ma tutte le volte che abbiamo dei dolori articolari, sicuramente la crioterapia può aiutare. Roberto, buongiorno. Roberto? Pronto? Eccola, Roberto, buongiorno. È Radio 24. Sento male, molto male. Sente molto male, la richiameremo. Noi stiamo parlando di mani e ci sono molti modi di dire sulle mani, ve ne state accorgendo. Pensatene un po', intanto sentiamone. A 100 mani, a 4 mani, a mani nude, a piene mani, dare una mano, a portata di mano, allungare le mani, mani d'oro, mani in pasta, mani bucate, mani nel sacco, mani vuote, mani in mano. Ma noi non stiamo con le mani in mano. In linea con noi c'è il professor Stefano Tirelli. Buongiorno, professore. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano, lei oggi ci insegnerà a dare una mano alle nostre mani. Sì, in particolare, oltre alle giuste tradizionali metodiche di terapie per la mano, ci sono anche quelle complementari. Ad esempio, la medicina coreana è maestra in questo, nel senso che ha un'antica conoscenza rispetto alle zone di riflessologia della mano. Sì. Sappiamo che oltre a quelle del piede, molto più conosciute, ci sono anche proprio zone che riflettono per vie nervose, ma anche per vie energetiche rispetto ai meridiani dell'agopuntura, delle caratteristiche che abbiamo negli organi. Per esempio, se guardassimo il palmo della nostra mano sinistra, potremmo manipolare, diciamo, massaggiare la parte sottostante il terzo dito, e quella è la zona proprio, per esempio, del cuore. Cosa vuol dire? Che in uno stato di ansia particolare, sì, la riflessologia della mano ci propone la stimolazione della zona sottostante il terzo dito e la zona sottostante invece il secondo dito è caratterizzato dalla zona dei polmoni. Quindi cosa possiamo fare? Nello stato d'ansia massaggiando in senso orario profondamente queste due zone, possiamo aiutarci a rilassare il respiro e al contempo a dare una frequenza migliore al nostro cuore. Poi un'altra zona tutto con una mano, con un dito. Sì, col dito pollice, col primo dito dell'altra mano, possiamo proprio... La dottoressa Della vede come da chirurgo dice se il dito, se il pollice funziona, perché sennò bisogna andare da lei. Certamente, certamente. Altrimenti però si può fare anche con l'indice, vero? Anche con l'indice, oppure anche, come diceva la dottoressa poc'anzi, con l'epifisi prossimale, quindi le cosiddette nocche, diciamo, della mano opposta, fare sì. Un bel massaggio profondo. Poi, ad esempio, un'altra zona, altre due zone che secondo me vale la pena conoscere sono sì. Proprio la zona che sta tra, sempre guardando il palmo della mano sinistra, la zona che sta tra il pollice e il secondo dito, quindi tutta la zona più ampia del sì. Nostro palmo della mano, quella è la zona dello stomaco, quindi laddove abbiamo... Allora, fermatevi in questa zona, guardatevi lo spazio compreso tra il pollice e l'indice. C'è questa specie di valle, possiamo chiamarla così? Essere e benessere. Professor Tirelli, siamo qua. Con le mani un po' in segno a pistola. Ecco, andiamo nella valle. Che cosa c'è lì, mi diceva? Allora, in quella sinistra abbiamo tutta la zona dello stomaco, quindi sì. Situazioni di ansia, di stress che ci prendono, come suol dire, lo stomaco, aiutiamo anche con questo metodo di massaggio di tutta questa zona. Ma al contrario, sul palmo della mano destra invece, guardandoci la mano destra, tra la zona del quinto dito, il mignolo, e tutta la zona centrale del palmo della mano, abbiamo invece la zona del fegato. E allora, quante volte durante la giornata siamo arrabbiati, siamo tesi, abbiamo uno stato di tensione muscolare generale, dato anche come concausa da questo stress epatico, da questa situazione. Allora, massaggiare in questo caso... Infatti si dice, mi fai venire un fegato grosso così... Ecco. Verde di bile, no? Verde di rabbia. Infatti il verde è proprio il colore che nella medicina cinese e coreana caratterizza proprio il fegato e la cistifellea. E quindi anche questa zona è importante. Io suggerirei anche di pensare a volte come il nostro organismo è intelligente di per sé, perché se pensiamo ai gesti che noi facciamo nella quotidianità, ad esempio, quando abbiamo freddo ci viene spesso da sfregare le mani, giusto? Sì. Anche se magari non sono le mani stesse ad essere freddo, ma è tutto l'organismo. È un gesto istintivo che io invito a fare agli ascoltatori, proprio sfregarsi le mani vuol dire attivare l'energia. Così. Certo, di tutto il corpo, perché io sto attivando le zone di riflesso della mano. Oppure, infatti mi sento già subito un po' tutta bollicine, anche è lei. Un po' più adrenalinica, vero? Un po' più calda. Dai. Sì, okay. Sì. Poi un'altra cosa per concludere, anche che ci carica un po' di autostima, facciamoci ogni tanto a noi stessi, dico, un applauso, perché l'applauso è anch'esso un gesto che attiva energia. Quante volte in una platea i cantanti, gli attori invitano il pubblico ad applaudire, ma questo perché? Sì, è vero che è un segno di consenso, ma è anche un'attivazione energetica di tutto il pubblico, quindi delle energie generali. E poi a proposito di applauso, in una trasmissione avevamo proprio tramite l'applauso, c'era il test dell'applauso che serve a riconoscere i veri mancini dai semimancini, quindi l'applauso torna, che ci ricarica e anche scopre se siamo destrimani o no. Professor Tirelli, quindi ripetiamo rapidamente: sotto il medio della mano sinistra c'è il cuore. Sì. Sotto il secondo dito, sempre della mano sinistra, c'è il polmone. Perfetto. Quindi se abbiamo un momento di ansia, agitazione, stress, con un dito oppure la nocca attiviamo due organi importanti, riprendiamo il ritmo del nostro cuore, che ci è utile per affrontare magari anche le situazioni stressanti, ma lavoriamo anche sulla respirazione. Vi ricordo che in apertura abbiamo aggiunto una mudra alla respirazione di Daniele Belloni. Invece sulla mano poi abbiamo la valle della mano, che ci piace molto, che possiamo pizzicare, mentre ci trasferiamo nella mano destra quando siamo arrabbiati, abbiamo delle persone che ci fanno venire proprio il fegato grosso. Professor Tirelli, quando viene? Al più presto. E poi tra l'altro voglio dirvi, per salutarvi, vi invito a pensare anche a questo: le culture, le popolazioni molto più riservate, tipo quelle orientali, salutano unendo i palmi delle mani in modo molto, come dire, chiuso, molto riservato. Sì. Noi mediterranei siamo molto più caldi, abbiamo, sì, un'energia magari più focosa, allora salutiamo col palmo della mano aperto. Allora io saluto tutti gli ascoltatori e te Nicoletta col palmo della mano apertissima e vi ringrazio moltissimo. Grazie professor Tirelli, a presto, a buona presto. Giornata. Arrivederci anche a voi. Mauro, buongiorno, ci chiama da Padova e Massimo da Lecce. Mauro, buongiorno. Buongiorno, sono buongiorno. Mauro. Sì. Salve. E niente, chiamavo perché ho un problema alla mano destra in particolar modo. Sì. Verso sera, io faccio un lavoro che attacco, cioè adopero molto, molto le mani, e stringo. Questi bidoni. Ma questo rumore che sentiamo, è lei al lavoro? Sì, sto andando a cambiarmi perché sto iniziando a lavorare. Mm. Ecco, no, è una motosega perché sta tagliando degli alberi. Vede? Ecco. Ma no, io non faccio quel lavoro là, faccio un altro lavoro. E quindi alla sera mi trovo la mano, appunto, che mi si apre, le dita che mi si aprono a scatto. Io provo a stirarla, però è un po'... Non ho un gran sollievo, è abbastanza doloroso, insomma, la cosa. Quindi vuol dire che la situazione, dottoressa Della, del nostro Mauro da Padova è legata probabilmente anche al lavoro che fa, che mi sembra essere un lavoro abbastanza impegnativo, abbastanza faticoso. I tendini si affaticano e vengono poi le dita a scatto ancora una volta. In questo caso sono delle tendiniti, molto probabilmente, da quello che Mauro ci racconta. Si deve intervenire o ci sono anche un po' dei sostegni, dei supporti? Ma purtroppo le ortesi non servono a molto. La miglior cura in queste cose è la prima, è il riposo. È il riposo. Massimo da Lecce. Anche Filippo dice il riposo, e come si fa? Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Io evidenzio un mio piccolo problema che praticamente diventa un po' più acuto, specialmente l'estate. Le mani praticamente diventano improvvisamente gonfie, le sento proprio come se fossero dei salsicciotti praticamente le dita. E in quel momento io non so se è una mia sensazione, dottoressa, ma avverto una particolare secchezza alla pelle anche. È una sensazione anche abbastanza fastidiosa perché poi noi siamo così, Massimo, da un sintomo ne mettiamo vicino un altro, così avere due o tre cose insieme in qualche modo cerchiamo delle relazioni che forse qua nel caso specifico di Massimo non ci sono, ma certo che il gonfiore delle mani in estate soprattutto probabilmente è abbastanza... il caldo, la vasodilatazione, probabilmente più un fatto vascolare. È il caso, è quando proprio noi avvertiamo, quando ci si gonfiano i piedi, togliamo le scarpe. Quando abbiamo le mani gonfie, togliamo un buon consiglio, anelli. Ecco, e comunque togliere gli anelli, serve il ghiaccio, po' di ginnastica? Sicuramente un po' di ginnastica, perché ecco, aprire e chiudere le dita della mano è una ginnastica vascolare, quindi aiuta il ritorno del sangue periferico al cuore e le mani dovrebbero sgonfiarsi. Tenere le mani su, tenere le mani giù. Le mani in alto sicuramente è un altro buon modo. Ecco, facciamo queste piccole, quando sentiamo le mani che diventano un pochino più gonfie, ecco, proviamo proprio come prima un gesto, po' di ginnastica. Ecco, un po' di ginnastica, un po' come faremo con le nostre articolazioni quando le sentiamo un pochino ma anche arrugginite. Con una banale pallina di gomma piuma si può fare questa ginnastica, o con una spugna naturale. È un tipo di ginnastica che possiamo consigliare come preventiva, come per mantenere anche le articolazioni delle nostre mani. Sappiamo che la mano è un organo molto complesso, pieno di ossicini, di tendinini, a tutte le sue, per cui questo... Mantenere le articolazioni in attività sicuramente aiuta, ed è appunto un'ottima ginnastica vascolare, quindi aiuta a tenere le mani sgonfie. Antonio, buongiorno, con lui andiamo a Bari. Antonio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Abbastanza bene, grazie. Ah, dai. Senta, volevo chiedere alla dottoressa, da qualche giorno, in particolare faccio un lavoro abbastanza manuale. Abbastanza cosa vuol dire, Antonio? Ci dica un po' cosa fa. Sì, manuale, perché insomma, lavorando in campagna, quindi altro che, certo. Da qualche giorno sul pollice destro, della mano destra, dalla parte interna, ho un rigonfiamento che una specie di pallino, quindi vero? Antonio, quando si dice che essere benessere a volte è proprio come il cacio sui maccheroni, pensa Antonio, ha sentito la trasmissione, ha questo pallino, che ci sono dei pallini strani nelle nostre mani, ad esempio quello di Antonio. Quello di Antonio probabilmente ancora una volta un fatto infiammatorio. Antonio, dove ce l'ha? La base del pollice? No, diciamo a metà strada, l'unghia, sì, a metà. A metà. Può darsi che si sia creata una cisti tendinea, che sono delle specie di sacchettine ripiene di una sostanza gelatinosa dovute proprio allo sforzo prolungato. Non si bucano, mi raccomando, perché poi noi ci accanniamo su questi pallini, stanno lì da soli? Stanno lì da soli e si devono togliere soltanto se creano dolore o particolare fastidio, altrimenti non è necessario toglierli. Certo, vanno diagnosticati con un'ecografia sempre. Allora, salutiamo ad Antonio a proposito di pallini. C'è un pallino che può comparire a metà nel nostro palmo, quasi al cuore. Un pallino un po' cordonato, direi. Quelli purtroppo non sono dei buoni pallini, perché quelle neoformazioni a cui lei, Nicoletta, si riferisce sono magari l'esordio di una patologia che si chiama morbo di Dupuytren. Quello che... che tende a fare retrarre le dita della mano, ma non come le dita a scatto, che scattano ma poi si estendono. Sono dei cordoni che tengono poi le dita fisse in flessione. Se inizia a manifestarsi questa sorta di cordoncino, diamo un consiglio rapidissimo per salutarci. È molto semplice, basta controllare che il palmo della mano tocchi completamente la superficie del tavolo. Finché questa estensione è completa non c'è da preoccuparsi. Appena diventa impossibile, è bene recarsi dal chirurgo della mano per toglierlo. Grazie dottoressa Odella, grazie a voi che ci avete seguito, a Filippa Oreggi in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Potete come sempre scaricarci. Fatelo. Essere e benessere.